tue braccia, mentre tu mi baci sempre più, addormentarmi così, sul tuo respiro, labbra sulle labbra, e non svegliarmi più. Addormentarmi così e non svegliarmi.